L'ideale collettivo di coraggio assume infinite sfumature. Coraggio è l'accettazione di una sfida, è l'adesione forte e convinta ad un credo o a dei valori, è la lotta per l'affermazione di un intimo senso di giustizia, oppure è l'affrontare una quotidianità che si propone come sopravvivenza a tante avversità. Coraggio è una disposizione dell'animo, non necessariamente incoscienza o spavalderia, ma intima fermezza del proprio agire e l'ipotetico atto estremo, quello del sacrificio della propria vita. È la consapevolezza che precede e presiede ogni atto futuro. Lido, Omero, Saverina e Giuseppe sono persone comuni, appartengono ad ogni epoca e a ogni società. Un operaio, un giovane truffatore, una contadina e un ragazzo. Persone che a un certo punto della loro vita, in un contesto storico eccezionale, quale quello di un conflitto mondiale, fanno di loro stessi un mezzo, si mettono a disposizione di un ideale in cui credono, in cui aderiscono con l'interezza di corpo e mente, in un moto spontaneo che li guida ad abbracciare una causa sociale, fuoriescono dalla sicurezza del loro vivere quotidiano. Ecco il senso del loro coraggio. Aprici, aprici, Eccoci di nuovo dottorio. qui. Ciao a tutte, ciao a Buon tutti. pomeriggio. Eh sì, 14:32, Radio Contado spicca il volo con una Che ma precisione che neanche la come infatti, ma Ryanair. come siamo puntuali oggi? Cosa succede? Vediamo se riusciremo a finire Chi lo puntuali. sa, succede che abbiamo fretta, cara dama, Lo bentornata. so, bentornato Muro, bentornato Drio, che Ciao, ormai sei Drio. finalmente. Però Drio, ricordati che non c'è un microfono davanti te, devi No, oggi torno nella parlare. caverna. Torno alla caverna, ma solo perché abbiamo due preziosissime ospiti che ci possono anche salutare. La Grebana Salve e la a tutte. Ciao. Mile, E che la sono Mile. già state ospiti varie In volte, passato, in passato, in passato. Perché sono qua? Perché oggi è puntatissima, puntatona. Di cosa Dai, parliamo? dicelo a te, Mulo, di cosa Sempre io, parliamo poi mi dite oggi? che sono saccente. Oggi è il 24 aprile e domani sarà Il il 25 25 aprile! aprile. Che anniversario è della liberazione? Vediamo chi gioca la matematica prima. Giocate anche voi due lì davanti. Dai, lascio rispondere a voi. La 74. Mile, dai, Mile, scusa, Maia. tu hai scritto anche un libro di cui parleremo dopo. Oh, 74esimo anniversario della liberazione, o almeno della liberazione, nel senso l'istituzione la rievoca, la richiama Sì, parlare di ogni anno. liberazione ai giorni d'oggi? È un po' strano, Ma vero? la prima domanda che ti faccio è, visto che è la domanda must ormai su tutte le radio che io sto sentendo, ma tu festeggerai domani o ti rifiuterai come alcuni No, io sindaci do. teste di cazzo? Scusate, che, no, Brava. succede anche questo, Succede perché anche questo, no? davvero Domani si io sono festeggia. veramente indignata perché veramente anche pensare che ci siano delle persone che possono anche pensare di non festeggiare, poi per carità, non vuoi festeggiare nel senso classico di aprire spumante, eccetera, però c'è cioè, una commemorazione al di là di un festeggiamento è una cosa importante. Abbiamo un Comunque. candidato sindaco che ha già deciso che se vince lui a Firenze non si festeggerà più il 25 aprile. Ecco, Beh. vi prego, non votatelo, ma anche se non credete nel 25 aprile, ma almeno perché è un giorno in più di festa, su via, dai, se proprio non vogliamo essere così Retorici. E retorici. infatti questa è la motivazione che ci porta, come è già accaduto anche in Radio Contado in passato, parlando per esempio o di foibe o di fine della prima guerra mondiale, a reinterpretare questa scadenza, questo anniversario, questa ricorrenza. E lo facciamo appunto a modo nostro, ovvero dando voce a delle esperienze, magari di rilettura di queste giornate, del significato che ne hanno, però ecco un pochettino più autoprodotte, un pochettino più dal basso, cosa che purtroppo l'istituzione ha letteralmente perso, quindi molta formalità, eccetera. Vabbè, Quindi ci daremo, pensiamo noi, lasciamo perdere nel nostro l'istituzione. piccolo, esatto, noi almeno ci si prova, at least we try, No, come dicono noi ci proviamo anche perché noi facciamo parte della comunità di di resistenza. resistenza contadina, Jérôme Laronce, voglio dire, Madonna, eh? eh Suona sì. bene, non si può non parlare di resistenza. Vicenza. Che bel nome. Mille, tanto non ti si sente, stai due metri e mezzo al microfono. Guarda, te lo dico. Che mo. Bel nome. Ah, grazie. Intanto vorrei avvisare i nostri radioascoltatori, sarà una puntatona che spaccherà il culo, si può dire. Certo, si può dire tutto quello che vuoi, ma... Dopodiché portate pazienza perché siamo tutti un po' fulminati, sì. Quasi stanno disperando alle mie spalle, perché c'è chi non ha la testa e dimentica il libro a casa, io sono in fase trasloco. Che bello. E l'altro è lontano, mi coffo. C'è Drio che ha fatto il pane stamattina, si è svegliato all'alba, davvero, esatto, sei un grande. Quindi siamo tutti un po' rincoccò, ma sarete fieri di noi anche quest'oggi, sì, giuro. Sì. Giuro. Quindi sì, prima di darvi queste prime chicche, canzonette eccetera, però non parleremo unicamente del 25 aprile, ma faremo un salto in Abruzzo, dove faremo un salto fisicamente magari su fine settimana. Esatto, perché cosa c'è questo fine settimana? Cosa c'è questo fine settimana? Lo chiediamo ai nostri giovani. Lo chiediamo alla Grebana! Vai Grebana, cosa c'è questo fine settimana in Abruzzo? L'incontro nazionale di Genuino Clandestino. Oh. Brava, un punto per la Grebana. E quindi noi vogliamo entrare nel dettaglio, perché vogliamo proprio, insomma, attraverso gli abruzzesi stessi che organizzano questo incontro, capire, insomma, ma che vuol dire, ma che ci sarà, che carne al fuoco, che ciccia c'è. Ci saranno gli arrosticini. A parte ci saranno 20 dalla Toscana come al solito. E vabbè, perché noi toscani siamo così, capito? Ci piace proprio allargarci. Si muove sempre in massa. Sì. Insomma, chiederemo qualche dettaglio, avremo ospite ancora una volta Fabio. Vi ricordate di Fabio? Fabio l'avevamo già intervistato quando l'Abruzzo si accollò il prossimo incontro generale, era nei giorni post Taranto, tipo puntate 4, 5, 6, quella zona lì di Radio Contado. Preistoria, oggi siamo alla puntata numero 29 come i giorni dell'anno bisestile, o meglio del febbraio bisestile, 29 come posso ricordare anni... cosa hai detto la scorsa puntata per le nostre giovani ospiti? La scorsa puntata era 28 come i giorni del ciclo mestruale. Certo, lo ripeto. Questa è anche il numero dei becchi. Quale? 28. Ah, non lo sapevo. Perché sarò... Il 29 sarà il numero... Boh, non ne ho la minima idea. Brava la Grebana. Dai, Drio, Dio, taglia tutti questi microfoni. Che perdonano, gli hanno fatto le corna. Stiamo già degenerati. Abbiamo in previsione 25 aprile, Lanciano, Abruzzo, eccetera, ma mandiamo un po' di musica. Sì. Scatti di rabbia e tensione non regge più. John lo sa, 70 anni e tornerà ad abbracciare il suo fucile. Se deve andrà un partigiano e lotterà, c'è pietà. Il primo colpo l'ha sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, a sangue freddo in pieno sole. Ora sai che il primo colpo l'ha sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, la prima volta ti fa male poi. Ma John è molto stanco ed ha fame, fame di aiuto e supporto che la bufera non dà. Hanno mischiato le carte e il banco, sa una truffa, la sabbia è oro, per chi non sa. Il primo colpo va sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, la prima volta ti fa male. Sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, a sangue freddo in pieno sole. faccia, si scoppia in faccia, la prima volta ti fa male poi. Libera, il primo colpo l'ha sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, a sangue freddo in pieno sole. Il primo colpo va sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, la prima volta ti fa male poi. Sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, a sangue freddo in pieno sole. Rigenerazione urbana, sussidiarietà, cooperative di comunità, comunanze agrarie, tutela dei territori, confronto con le pubbliche amministrazioni. Questi temi che vorremmo approfondire e discutere all'interno dei tavoli tecnici. Stiamo parlando chiaramente del GC Abruzzo e in particolare del tavolo tecnico beni comuni, che dà il nome all'intero incontro generale, ex nazionale, intergalattico, eccetera. Ci saranno ospiti, da tutta Italia, quindi gente che queste cose già le ha fatte, già le ha spese, e già in anticipo ringraziamo la realtà che ci ospita, che ci andrà ospitando. Non ce l'ho fatta a tenere questo tono da, come si chiama, da lettura per tutto il pezzo. Troppo serio. Non è nelle mie corde, però tutto questo per introdurre questo macro tema, adesso mentre giustamente componi il segretissimo numero di cellulare del referente. Ci aspettano in Abruzzo a partire da dopodomani, venerdì 26, e sostanzialmente speriamo di dare la parola a Fabio fra 1, 2, 3. Pronto? Eccoci Fabio, siamo in diretta. Ok, ciao a tutti. Ciao Fabio. Ciao, buongiorno. Bentornato a Radio Contado innanzitutto, ben ricordiamo che tu hai già fatto un capolino nella nostra trasmissione, quindi davvero grazie di essere tornato ai nostri microfoni. Mi fa piacere riparlare con voi, insomma. Bene, bene Fabio, allora abbiamo fatto un piccolo intro di quello che succederà questo fine settimana in Abruzzo, quindi l'incontro di Genuino Clandestino, però dici qualcosa a te, perché tu sei uno dei membri della realtà che ci ospiterà, insomma. Sì, io sono uno del... membri della neonata rete del Genuino Clandestino Abruzzo, e faccio parte anche di Zona 22, che è lo spazio sociale che ospiterà i primi due giorni di Genuino Clandestino, perché poi invece per la giornata conclusiva di domenica ci sposteremo a Lanciano, una cittadina un po' più grande, che è anche la sede del mercato scoperto, insomma un mercato settimanale che facciamo, che aderisce appunto anche il mercato alla rete di Genuino Clandestino Abruzzo e anche alla rete nazionale. Bene, quindi le prime due giornate dove di preciso? Allora, le prime due giornate le passeremo a San Vito Chietino, in riva al mare, diciamo a 10 metri dal mare. No, è così però. Però così non vale, dopo uno vuole andare a farsi il bagno. Speriamo che sia bel tempo, qua mette 30 gradi di giorno. Approfitto di questo spazio, insomma, per ricordare a chi ci sente che c'è un po' di escursione termica. Quindi vestitevi un po' astrati, ecco, a cipolla. Diciamo, a cipolla. E quindi insomma, che succederà in queste prime due giornate? Poi passeremo all'ultima. In queste prime due giornate, come si parte? Venerdì si arriva e? Allora, l'abbiamo pensata così. Alle 16 ci sarà l'apertura dell'Info Point e l'accoglienza. Questo venerdì 26 aprile. Dalle 17 dei ragazzi abruzzesi che fanno musica dub e reggae si sono proposti e quindi ci intratterranno per il pomeriggio fino alla cena con questi ragazzi, questo gruppo si chiama La Gia Family, ci intratterranno con la loro musica fino alle 20, poi alle 20 ci sarà la cena e diciamo gli orari poi sono un po' flessibili naturalmente. Alle 21 ci sarà uno spettacolo teatrale in dialetto abruzzese, Umone della Luna, con conti e canti metici della tradizione popolare abruzzese, di Emanuela Tortona e musiche di Mimmo Spadano, uno dei componenti del gruppo di Lanciano, Le Terre del Sud. Quindi, insomma, c'è un inizio proprio in festa, ci accogliete in festa. Inizio in festa perché giustamente tanti, molti di noi arrivano da lontano, quindi poi il sabato insomma saremo un po' più seri, ecco, diciamo. Quindi, no, vabbè, qua dicono già di no, sperano in poca serietà anche il sabato, ma non è vero. Anzi, il sabato sarà invece ricco, no? Perché benissimo. Ci saranno assemblee, sabato tavoli. Quindi, sabato ricchissimo. Raccontaci un po'. Vi sento poco. Oh, noi ti sentiamo bene, raccontaci un po'. Allora, vai. Allora, si comincia la mattina presto, diciamo dopo la colazione, dalle 9 si comincia con i tavoli tematici. I tavoli tematici che abbiamo pensato sono 8, se volete vi elenco un po' i titoli per sommi capi. Vai, vai! Allora, dalle 9 alle 13 ci saranno i tavoli tematici e abbiamo pensato a un tavolo sui beni comuni, a un tavolo sulla garanzia partecipata e nuove reti, un tavolo su ecologia e lotte ambientali, un altro tavolo primi semi, riflessioni per una libertà di educare, un altro tavolo nuovi schiavismi, un tavolo diciamo così specifico, sempre tematico, sull'artigianato e poi ci sono i due tavoli che si ripropongono da tempo ormai nei vari genuini che sono la formazione e la comunicazione. Okay. Dopo ci sarà una pausa pranzo e si ricomincia dalle 15 con i tavoli tecnici. I tavoli tecnici saranno, vado per titoli insomma, modalità di lavorazione dei suoli in ottica di prevenzione del dissesto idrogeologico, epigenetica, il tavolo tecnico pratico sull'artigianato, un tavolo sulla birra artigianale, un tavolo sulla fertilità del suolo, un tavolo sulla permacultura e un tavolo di erboristica che ci è arrivata la proposta diciamo dal nazionale poco tempo fa. Dagli Strulgador. Come? Dagli Strulgador. Sì, sì, sì. Sì, da loro. Niente, di corollario, ma non proprio di corollario, perché comunque abbiamo scelto degli argomenti a tema, avremo installati in questi due giorni, avremo molti audiovisivi, infatti abbiamo allestito una sala di proiezione, e avremo varie mostre fotografiche che insomma faremo un percorso fotografico, un percorso audiovisivo in qualche modo. Figata. Ottimo. E ci sarà anche? Anche insomma sabato sera non ci facciamo mancare, dopo la giornata un po' di discussione, ci sarà la plenaria giustamente, alla fine dei tavoli, la plenaria alla fine dei tavoli tecnici. E dopo cena comincia la festa, avremo un gruppo musicale per chiudere DJ set. Quindi insomma, il sabato è impegnativissimo. Abbastanza. Senti, ma se uno... Abbastanza, però penso che ne usciremo un po' arricchiti un po' tutti e tutti, insomma. Beh, quello... questa giornata. Insomma, si spera, è l'obiettivo di questi incontri nazionali, insomma, che si svolgono. E di solito è così, insomma, usciamo tutti pieni di tante cose nuove. Ma se uno volesse capire un po' meglio a che tavolo partecipare, dov'è che può trovare un po' di informazioni maggiori? Allora, le informazioni, noi quando arriverete qui, noi abbiamo fatto dei pieghevoli con delle note descrittive, però con tutte le info anche per come raggiungerci, insomma noi abbiamo fatto un evento e l'evento si chiama Terra Bene Comune, su Facebook naturalmente, Terra Bene Comune Incontro Nazionale di Genuino Clandestino, quindi ripeto Terra Bene Comune Incontro Nazionale di Genuino Clandestino. Perfetto, e allora poi concludiamo... Ci sono anche riferimenti dalla pagina web di Genuino Clandestino e comunque diciamo già sta girando un bel po', ecco. Bene, e per concludere, la domenica invece come funzionerà? La domenica ci sposteremo di buona lena da San Vito a Lanciano, che è una cittadina vicina di, come ho detto prima, di 35.000 abitanti, e saremo con il mercato nel cuore di Lanciano, in un luogo che si chiama Viali delle Rose, è proprio all'imbocco del corso che poi conduce alla piazza principale di Lanciano. Sono 8 km da San Vito a Lanciano, ci sarà il mercato e anche durante il mercato ci sarà un banchetto informativo. Durante il mercato e poi oltre a tutti quanti i banchi abbiamo avuto un bel po' di adesioni per i banchi, insomma riusciremo a riempire questo spazio e avremo delle mostre anche lì, abbiamo coinvolto delle scuole di Lanciano che stanno lavorando sul percorso dei beni comuni, che abbiamo già coinvolto, stanno facendo insieme a noi un percorso sui beni comuni, quindi avremo un bel po' di disegni, di componimenti dei bambini delle scuole elementari, della scuola primaria. E poi ci saranno due esibizioni musicali itineranti, oltre alle mostre al mercato, e canteranno Michele Avoglio e Libera Voce, e avremo anche Ismael e le Parole di Terra, che credo conosciate, insomma. È andato un po' in giro per i vari genuini clandestini, un po' per tutta Italia. Ma insomma, un genuino clandestino così musicale era da tanto che... Bravi! Sì, grazie. Poi mi sono scordato di dire, per l'intera diciamo per l'intera 3 giorni avremo anche il ludobus dei ragazzi della Marsica, quindi sempre abruzzesi, che fanno di officine sinergiche, che hanno aderito alla rete di Genuino Clandestino Abruzzo, e anche nella Marsica sta per nascere un mercato, diciamo così, ad Avezzano. Dovevamo fare il primo mercato il 1° maggio, non ce la faremo proprio perché siamo impegnati nell'organizzazione di questo Genuino, però più in là insomma nascerà anche un mercato stabile nel territorio marsicano. Quindi insomma, come rete abruzzese state crescendo, mi sembra proprio il momento giusto per fare un Genuino da voi. Mi auguro di sì, e credo che questo, infatti siamo molto felici di poter ospitare l'incontro nazionale, perché noi lo vediamo come un inizio di un percorso, non semplicemente come una 3 giorni, come un inizio di un percorso per iniziare a ragionare più approfonditamente di garanzia partecipata, dei vari sistemi di garanzia partecipata, per incontrare, comunque per prendere anche spunto da esperienze più longeve e per incontrare compagni e compagni, insomma, e amici che conosciamo da tempo. Senti, ma una domanda, da quant'è che esistete come rete abruzzese? Come rete abruzzese esistiamo da poco, diciamo prima eravamo un po' personalmente. Cioè, alcuni di noi si occupano di queste tematiche dal social forum, ad esempio io, quindi dal 2000 insomma conoscevo Terra, conoscevo prima di Genuino, conoscevo Altra Agricoltura, abbiamo collaborato insieme, era passata la carovana qui, comunque un paio d'anni che stiamo ragionando su Genuino Clandestino. A Zona 22 abbiamo ospitato già nel 2014 un incontro di Genuino Clandestino. Ah, quindi non è il primo. 22, ok. Bene, complimenti allora. Ma... Non vediamo l'ora, io non vedo l'ora. Io... Tu non vieni purtroppo, ci abbiamo detto ieri, vabbè. Soprattutto dopo aver sentito questo copioso programma, veramente metterò le mani nei capelli, io dovrò trasportare i mobili capelli? Invece di essere lì. Solo la settimana prossima. Magari, guarda, potessi farlo, lo farei volentieri. Vabbè, ma sarà occasione per me, mi autoinviterò una volta se mi ospiterete... senza Genuino Clandestino a conoscervi, sì. Comunque. Posso? Non vale da me. In pratica noi quest'estate, cioè noi tutte le estati, adesso faccio un po' di spot su Zona 22, noi ospiti, organizziamo ogni anno il campeggio estivo ad agosto, della settimana di Ferragosto, e quest'anno anche lo faremo, quindi è mio. Poi vi girerò le info, là ti fa andare di più al mare, ecco, diciamo. Vai. Va bene. Te la mandiamo noi. Forse da solo l'avete mai sentita, però noi abbiamo la costa dei Trabocchi. I Trabocchi sono quelle macchine che si usavano da pesca, che sono sospese tra terra e mare, diciamo. Ah, quindi anche una cosa particolare. Dell'Abruzzo e della Puglia. Dai, ve la mandiamo a fare un'inchiesta radio, proprio in quel periodo di Ferragosto. No, io vorrei andare in vacanza. No, non dire ok, Fabio, per piacere, di no, solo vacanza. Va bene, la vacanza è meglio. No, non entrassi in queste dinamiche. Va bene, intanto ti ringraziamo e... Vi ringrazio io. In bocca al lupissimo. E buon lavoro, perché insomma questa 3 giorni è meravigliosa, ma per voi sarà intensiva. Viva il lupo e ci vediamo tra un paio di giorni. Dai, ciao. Accorrete tutte e tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Quindi accorrete tutte e tutti tranne la povera dama. La povera dama davvero, speriamo. E la povera Mile, che anche lei non potrà venire. Però insomma, veramente mi sembra un programma che spanca. Sì, diciamo che ci sarà un sabato molto molto hardcore. Però a latere, ecco, giusto per continuare a usare citazioni colte, però c'è tanta musica, c'è tanta località, tanta tradizione, tradizione. Hai capito? Sei proprio una cosa rivendicativa, sai? A noi ci piacciono i contadini sinceri, dicono: ah, venite nella nostra terra, mangiate quello che cuciniamo di solito, i cibi locali, tradizioni, però ve lo facciamo pure gustare. Quindi, bomba. Io direi che è perfetto. Allora, perfetto. In bocca al lupo agli abruzzesi, a tutti in bocca... quelli, in bocca al lupo. Sei una grande, sei una stragrandissima. Senti, oggi stiamo per entrare nel vivo. Ci avete fatto caso, ascoltatrici, ascoltatori? Lo state per fare caso? Tutte le nostre canzoncine di oggi riguardano sempre il 25 aprile. Oggi va così, e questa in particolare dovrebbe quantomeno risvegliarvi. Allora, grazie, vai col risveglio. Attaccala subito, che c'è un bel attacco. We'll be right back. ci sarò. Lo sai con te muore ciascuno di noi. Teresa non piangere. La voce si è sparsa e tutti quelli che sono riusciti a mettersi in salvo hanno preso la via della montagna per poi ritrovarsi sul Boggio delle Pianacce, non lontano da Marradi. Un accampamento improvvisato è sorto in mezzo ad una radura. Molti bambini già dormono. Vedo Anna e Marisa che riposano. Marisa mi abbraccia e, piangendo, mi dice che non si hanno notizie di Bianca, uscita stamattina per raccogliere le more. Non deve aggiungere altro per farmi capire che sta pensando al peggio. Il mio aspetto non può certo rincuorarla, ridotta ad uno straccio come sono. Il panico mi assale, una fitta allo stomaco si somma al dolore intercostale. Paralizzato, non trovo le parole. Nanni mi tira per il braccio. Coraggio, Maso, la riunione sta per cominciare. La maggior parte dei capofamiglia della Valle dell'Amone è presente, riunita in cerchio ai piedi di un faggio. Gli uomini di Camurrano stanno già litigando con quelli di Biforco per storie di bestiame di almeno 15 anni fa. Passaggio obbligatorio che precede ogni forma di relazione tra le due fazioni. Difficile dire se assomigli più ad un consolidato cerimoniale di saluto che a un vero e proprio scontro verbale. È Buonaccorso, uno degli anziani della valle, a rompere gli indugi e spronare gli animi. I mercerari passeranno domani mattina per le scalelle, su per Gola di Biforco. Non ci resta molto da perdere, possiamo aspettarli al varco e fargliela pagare. Questo è poco ma sicuro, noi ci saremo, e anche le donne e i bambini, dobbiamo esserci tutti, o non riusciremo mai a sopraffarli, dice Guido dei Bianchi mentre i suoi innalzano accette, falci e roncole. Non dimentichiamo che i Guidi, gli Ubaldini e i Manfredi hanno dato il loro assenso alla rappresaglia contro la grande compagnia e garantiscono che un contingente di balestrieri fiorentini ci raggiungerà a dare manforte. Gli occhi cupi e tetri dei valligiani si illuminano di una tenera fiducia. Forse non è un suicidio assicurato, forse è davvero possibile spedire all'inferno quei dannati mercenari senza lasciarci le penne. Sono in molti a invocare le scalelle come roccaforte naturale da cui sferrare l'attacco. Ci muoveremo prima dell'alba, ammasseremo pietre e tronchi, che Dio ci aiuti. Se riusciamo a fermarli alle scalelle, possiamo annientarli, quella forra sarà la loro tomba. Penso a Bianca, chissà se la rivedrò mai più, ancora una fitta e un'altra ancora. Raggiungo marcollando Anna e Marisa, ci corichiamo, le abbraccio. Non ho saputo difendere la mia famiglia, ma possiamo ancora farci giustizia. Domani falceremo le loro vite come grano maturo. E diamo così il benvenuto alla Grebana, che si presenta con il botto, come suo solito. Dun dun dun dun. Che meraviglia, che meraviglia. Grazie innanzitutto di aver rotto tutto quel muro emotivo che ti ha tenuto lontana da Frittole per tanto, tanto, tanto tempo. Ti diamo un caloroso abbraccissimo, ok? E insomma. E ora vi dico che cosa vi ho appena letto. Per esempio. Per esempio, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Bene. Come hai fatto a finire qua? A parte con la macchina, a parte con le strade giuste. Insomma, per noi è bellissimo rivederti e abbiamo conservato gelosamente il tuo cartellino per tutto questo tempo. Anche nonostante se ne manchi un pezzo, perché con cui ci hanno fatto un filtro e si vede benissimo il taglio quadrato. Però e queste cose qui qualcuno ha provato a dire che magari era solo un po' rotto. Sì, era caduto, abbiamo provato a dare. Vabbè, a parte le nostre consuete sciocchezze. Bene. Insomma, cosa ci hai letto di bello? Cosa vi ho letto? Bene, si parla di resistenza e quello che mi è venuto in mente è leggervi questo piccolo estratto di un altrettanto piccolo racconto che ho scritto insieme ad altri due compari della comunità di resistenza contadina. E ci sembrava, diciamo, una giornata calzante questa, vicino al 25 aprile, perché è un racconto che parla anche questo di resistenza, però siamo nel 1358, quindi diciamo non è attualissimo, ma o in forse realtà sì. O potrebbe o forse molto sì. Esserlo, perché si parla appunto di questa rivolta di valligiani e siamo nella zona di Marradi. Contro... Scusa, dov'è Marradi? Marradi, siamo di là dalle parti del Mugello, poi si scavalla dall'Avane verso la Romagna. Sai, perché conosciamo benissimo la città di Firenze, noi fiorentini, però magari fuori da Firenze già iniziamo a essere... infatti non ne ho idea, ma soprattutto ancora più mi viene in mente, ma voi, giovanissimi della comunità di resistenza contadina, scrivete una cosa del 1300. Del 1300. Mi sono scoperta una nerd medievalista, o medievista e dirsi voglia. Come mai? No, in realtà ci è capitata questa storia tra le mani, quindi abbiamo iniziato a spulciare un po' di informazioni, ci siamo messi a buttare giù due righe, tra l'altro da lì io mi sono persa in tutto il 1300 come secolo, che ci rivela in realtà grandi sorprese tra crisi bancarie, pestilenze, carestie, guerre, grandi compagnie, banche rotte, l'inizio della finanza, con titoli di credito, insomma un sacco di cose interessanti con cui potrei tediarvi per ore, ma tornando al racconto, appunto ci sono questi valligiani che si trovano di fronte a questa grande compagnia, che era la compagnia di mercenari più grossa che c'era nell'Italia di quel tempo, e scorrazzava, pagata, veniva assoldata dal signore di turno per appunto scaramucce che c'erano tra i vari signori. In questo caso era stata pagata dai senesi per andare a combattere i perugini e doveva passare per l'appunto dalle zone fiorentine. Ci aveva provato già l'anno prima, erano stati bloccati. Perché poi il problema con queste compagnie di mercenari era che in realtà alla fine i signori si trovavano a doverli pagare per allontanarli, perché comunque, diciamo, essendo pagati gliene fregava il giusto e l'onesto, comunque volevano fare un po' quello che gli pareva. Ci ritentano nel 1358 e riescono a trovare un accordo con Firenze, cerca di fargli passare il più lontano possibile dall'abitato, quello stretto, e gli fa passare appunto da questi poveri valligiani appunto della zona di Marradi, lontani da Firenze ma vicini ad altri abitanti. Esatto, però gliene fregava molto meno, non passavano, insomma, diciamo vicino vicino, e quindi si accordano per farli passare. Ovviamente l'accordo sarebbe stato, dovevano passare e avere gli approvvigionamenti che servivano a tutti i cavalieri eccetera al loro carico. Quando una volta arrivati lì, ovviamente loro cavalieri armati eccetera se ne sbattano altamente, iniziano a depredare, stuprare e distruggere tutti i villaggi. Al che cosa succede? Appunto, si ritirano sulle montagne i sopravvissuti e decidono appunto di vendicarsi di questo oltraggio. Di questo, sì, nemmeno oltraggio, insomma, gli avevano esatto. di questo uragano, di questa devastazione. E nulla. E quindi, e tra l'altro erano pochissimi, la compagnia c'aveva tipo 3.000 cavalieri, insomma. Beh, diciamo, sfruttano la conoscenza della zona e appunto il fatto che si possano salire sulle montagne, e il resto lo leggerete prossimamente nel racconto, quando ve lo faremo leggere, non si sa ancora di preciso. E niente. Beh, allora, innanzitutto tanta roba, sul quando ve lo faremo leggere ci si arriva, non ti preoccupare, inutile che ghigni sotto i baffi. Io invece avrei una curiosità. Io so da fonti note che comunque, al fine di raccogliere informazioni piuttosto che dettagli, anche sensazioni, cosa che gli scrittori giustamente, cibo di cui si devono nutrire per essere veramente, come dire, rappresentativi di ciò che vanno scrivendo, ecco, sappiamo che tu e il resto di questo micro macro collettivo avete fatto una bella gitarella. Yes, siamo quindi andati a farci una gita proprio nelle zone appunto del Campigno, e durante la nostra escursione, per l'appunto, abbiamo fatto questo percorso che porta in cima al Monte Lavani, che poi sono le zone dove era il passo delle Scalelle, perché adesso non c'è più il passo nello specifico delle Scalelle. Okay. E tra l'altro, appunto, per ricollegarsi sempre a questa giornata di resistenza, arrivati in cima al Monte Lavani troviamo la capanna del partigiano. Oh. Che, ecco, è chiamata, ecco, che è chiamata così appunto in memoria di un'azione che venne compiuta da una banda partigiana che si chiamava la Banda Corbari, che era appunto un gruppo partigiano attivo nella Romagna dal 43 poi fino al 44, perché insomma la loro storia poi non ha un lieto fine. Che appunto è intanto un gruppo particolare, perché non si sono mai legati ai partiti, non hanno mai avuto commissari politici all'interno, cosa che comunque ha suscitato anche un po' di diffidenza nei confronti di questo piccolo gruppo, e che però insomma ha compiuto azioni anche importanti nonostante gli scarsi numeri. E quindi mi ricollego a un'altra lettura che volevo farvi, che è quella, perché andando a informarmi appunto e trovando che era la Banda Corbari, mi sono ricordata che nel libro di Cacucci Ribelli c'è un piccolo capitolo proprio su Silvio Corbari e il suo gruppo partigiano, e cita per l'appunto l'episodio avvenuto sul Monte Lavani. Quindi parliamo di resistenza del 1358, e poi veniamo catapultati 600 anni dopo, sempre sul Monte Lavani e sempre in luglio, però nel 44. Ha studiato la Crema, ha studiato la strada grande. C'ha un sacco voglia di leggercelo subito, oppure vuoi... Ve lo leggo poi. Io magari farei letturina, ma come finisce letturina? Subito un pezzo musicale e dopo commentiamo la letturina. Dai, che dite? Si può. Vai. Vado? Allora. Adriano Casadei era il compagno inseparabile di Corbari, l'amico per la pelle. Si capivano al volo, un'occhiata, un cenno e via. Due caratteri diametralmente opposti che si compensavano a vicenda, entrambi coscienti che l'altro era la parte mancante di ciascuno. Impulsivo e audace Corbari, dotato di un carisma trascinante, riflessivo e freddo Casadei, dal carattere schivo e poco propenso a mettersi in mostra. Il primo sorrideva spavaldo nelle foto in faccia alla morte, il secondo scrutava serio e cupo il mondo, diffidente ma sempre pronto a condividere l'allegria del momento e la gioia di essere sopravvissuti malgrado tutto. Casadei organizzava, studiava, osservava. Corbari agiva, colpiva, guidava all'attacco, ma soprattutto riportava al riparo i compagni, costantemente preoccupato della vita altrui. E di non offrire pretesti a rappresaglie, evitando di coinvolgere abitanti di paesi e contadini, se non lo stretto necessario. A Corbari imputavano qualsiasi azione, lo vedevano ovunque, anche quando era lontano mille miglia. Eppure fu Casadei a ideare e a condurre le imprese più riuscite da un punto di vista bellico, come il duro colpo inferto ai tedeschi sul Monte Lavani. La notte tra il 17 e il 18 luglio, il gruppo di Corbari era riuscito finalmente a ottenere un lancio di rifornimenti dagli alleati, dopo estenuanti trattative per dimostrare di meritarlo. Gli angloamericani pretendevano che la formazione comprendesse almeno 500 effettivi e che il CNL garantisse politicamente per loro. La banda Corbari-Casadei era allora composta di 52 uomini e una donna, ma il materiale sarebbe stato diviso con i compagni del battaglione Ravenna e con un gruppo di garibaldini toscani. Le casse appese ai paracadute furono 36, con armi, munizioni, viveri, vestiario e tanto esplosivo, ben 8 quintali. Per il resto della notte e la giornata successiva lavorarono incessantemente per mettere a riparo quei rifornimenti preziosi, tra cascine abbandonate, grotte e casaloni coperti di frasche. L'esplosivo venne nascosto in una capanna a quota 1165. Ma i quattro passaggi consecutivi dell'aereo da trasporto erano stati notati dai tedeschi e alcune pattuglie avevano confermato al comando movimenti di banditi sulle montagne della zona. La sera del 18, cinque colonne formate da SS e truppe scelte degli Alpenjäger avanzarono verso il Monte Lavane. All'alba, le vedette dei partigiani scorsero le prime pattuglie che risalivano dal fondovalle. Casadei prese con sé una decina di uomini e attaccò immediatamente per aprirsi un varco. Questa volta non dovevano risparmiare le munizioni. Due del suo gruppo, soprannominati il Bello e il Brutto, cominciarono a sgranare nastri su nastri di mitragliatrice, sparando in qualche ora più di 6.000 colpi. I tedeschi erano almeno un migliaio, ma i ribelli si trovavano in una posizione vantaggiosa e riuscirono a tenerli inchiodati per tutta la mattina, tanto che gli attaccanti richiesero l'appoggio dell'artiglieria. 8 ore dopo, grazie al fuoco ininterrotto che fece credere ai tedeschi di avere di fronte forze molto più numerose di quanto fossero in realtà, i partigiani iniziarono a sganciarsi lungo il fosso dell'Avane. Casadei raggiunse la capanna stipata di esplosivo, intenzionato a farlo saltare, ma dopo aver piazzato detonatore e miccia si accorse di non avere i fiammiferi. Decise allora di lanciarci dentro una bomba a mano, dicendo: o riesce o ci resto secco. In quell'istante il Bello gli passò un cerino, recuperato in qualche tasca. Casadei ripiegò, sparando raffiche contro le prime pattuglie, e si rifugiò in mezzo alla boscaglia. I soldati tedeschi circondarono la capanna, credendola ancora occupata, e prima di sfondarne la porta aspettarono di raggrupparsi a centinaia tutti intorno. Casadei osservava la scena imprecando. Forse la miccia si era spenta. Quando stava ormai perdendo l'ultima speranza, un'esplosione spaventosa sembrò frantumare l'intera montagna, come se fosse un vulcano in eruzione, e persino i compagni che si allontanavano sul versante opposto vennero scaraventati qualche metro più in là dallo spostamento d'aria. Tra Alpenjäger e SS morirono circa 200 militari e altri 150 rimasero feriti. Il comando tedesco ammise il tremendo colpo subito e persino Radio Londra elogiò l'azione. Nessuno di loro poteva immaginare che tutto questo era opera del solo Adriano Casadei, aiutato da due compagni e salvato dal provvidenziale cerino del Bello, che gli aveva impedito di compiere un gesto suicida. La vita umana non dura che un istante. Si dovrebbe trascorrerla a fare ciò che piace. In questo mondo fugace come un sogno, vivere nell'affanno è follia. Ma non rivelerò questo segreto del mestiere ai giovani. Visto come vanno le cose oggi nel mondo, potrebbero fraintendermi. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Geniali dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. Geniali dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. braccio di festa, giovane umanità, antica, fiera, indigesta. Cielo padano plumbeo, denso, incantato, incredulo, un canto partigiano al comandante diavolo. Non temere il proprio tempo è un problema di spazio. Non temere il proprio tempo è un problema di spazio. Geniali dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. Letture intense, Grebana, grazie. Sì, sì, è vero, torniamo in diretta, sono le 15:19. Diamo due recapiti di questo, di cosa sì, si sta ascoltando attraverso l'etere o le morbidissime frequenze. Ricordiamo che su Radio Contado, che ci potete scrivere a radiocontado@insiberia.net, ci potete ascoltare su AM 1359. Oggi in diretta, come tutti i mercoledì, tranne il prossimo, oh, ci sarà la sì. grande festa. Esatto, esatto, ve ne adesso parleremo ci arrivo poi. E in replica il venerdì e il sabato, il venerdì mattina e il sabato a pranzo. Sì, sì, un po' prima di pranzo. Continuiamo a ringraziare numerosissimi coloro che scrivono le mail, davvero siamo così nell'imbarazzo di leggerle che diventa veramente difficile. Camicia quando tornerà. Camicia, lo abbracciamo calorosissimamente. Ciao Camicia, ci manchi un botto. Quando torni? Quando torni? Boh. Non lo so quando torna. Sì, chi dovrebbe tornare. Scriveteci a radiocontado@insiberia.it se sapete quando torna Camicia. Sì, non vale che scriva Camicia. E tutto questo può avvenire solo nel caldissimo abbraccio di mamma Radio Wombat. Quindi 13:59 ormai io me lo sono tatuato sulla spalla destra 13, te sulla spalla sinistra 59. 59, 14 no, perché sennò avremmo fatto una cazzata. Insomma, torniamo in diretta, puntata del 24, quasi 25 aprile, e come accennavi te, cara dama, noi peschiamo il giollissimo settimana prossima, perché essendo il primo maggio di mercoledì, mi sa che questa puntata ve la puppate in replica per un paio di settimane, visto che coi cazzo che si va in diretta, anzi... Beh, anzi perché saremo, perché noi comunque siamo ligi al nostro dovere radiofonico. Al mare, esattamente, sì. A Rosignano, Solvè, esatto. No? Sì, sì. No? No? No, no. Ah, aspetta un attimo. Sarò come al solito sommessa dai miei scatoloni. Che ma bellezza. Tu, caro Mulo, insieme a tanti altri... Vado a fare il banchino fantastico. Di Radio Contado a Rosignano Solvè. Esatto. Dov'è la festa UOM 9? Che è esattamente in centro a Firenze, Rosignano Solvè, sì, vero? Più o meno. Cioè, dopo c'è un po' di polvere. C'è un po' di polvere in meno, c'è un po' di bianchezza in meno, però ecco, dai, a parte le infinite sciocchezze, dopo avremo un mega super ospite, un flash al telefono che ce lo ricorderà meglio, ahimè, di me. E di te, visto che fra tutte e due non so chi è peggio ripigliato in questa fase della vita. Però primo maggio, festa Wombat, polveriera, mattina, pomeriggio, sera, concerti, musica, panini. Vabbè, ma banchini. Non diciamo troppo, dai, poi ci sarà il collegamento. Ma è tutto quello via. Che so. Lasciamo di nuovo voce alla nostra grebana. Sì, torniamo a farci un attimo più seri, ti va? Al suo libro. Eh sì. Cioè, perché le domande sono tante, insomma. Allora, dammo, questo scoppia tutti a ridere, perché uno non è suo e due non è il libro. Esatto. Ah, ok, ovvero, quindi, conto. Vedo che sei concentrata, adesso, no? Un piacere. No, perché non è suo, perché fa parte di questo progetto. Vabbè, che è molto interessante. È anche un po' suo, poi sì, certo che è suo. Dio buono, certo che è suo, ma il senso credo che vada ricercato nel lavorare insieme. Prima ci siamo presi degli appunti e delle cose molto carine sono per esempio su... La memoria sì, però anche il recupero, l'autoproduzione della memoria, insomma, temi, come dire, interessanti. Come si fa a esplorare o arrivare a voler esplorare questa cosa? A 17 anni. E mezzo, scusami. Ma in realtà è nato tutto un po' per caso, diciamo. A me scrivere piace, o comunque l'ho sempre un po' fatto, molto così, amatorialmente. E... poi in realtà è nata questa idea della scrittura collettiva che mi piace ancora di più perché comunque appunto fare le cose in collettivo mi piace in generale e secondo me appunto riesci a compensarti con le varie doti e indoli di ognuno per creare appunto poi qualcosa in questo caso che ci può essere un po' storico, ora noi è un piccolo racconto quindi, però in realtà mi piacciono anche molto i romanzi storici appunto per questa cosa della memoria o di riportare alla mente episodi, fatti, successi, appunto 1300 che cavolo se l'era mai ricordato, andare a rivedere. Medievalisti, non i caprari e le caprare. Esatto. Una caprara medievalista. E era interessata appunto anche in parlando di resistenza, al di là del ricordare l'episodio in sé, di ricordare cos'è il fascismo, cos'è stato, come è stato volontariamente, insomma, voluto eliminare. È interessante anche proprio l'idea della resistenza in sé, di come poi nelle varie epoche, si parli di 1300 come di nel 1900, a un certo punto quando ci sono delle ingiustizie o quando ci senti oppressi o ci veniamo privati delle libertà, a un certo punto il popolo si prende la briga di muoversi in prima persona per fare qualcosa. E quindi è anche interessante riportare alla mente attraverso piccoli racconti, attraverso romanzi, insomma, o anche solo parlando queste cose. Perché comunque con la memoria uno ti fa vedere che appunto ci si può muovere in qualche modo, ci sono varie forme di resistenza e uno può portare avanti. Poi diciamo l'idea finale potrebbe essere scavallare il momento della resistenza per arrivare semplicemente all'esistenza, ma questo è il fine utopico. Oi, ma guarda che profondità. No, no. È vero. Però insomma sì, anche appunto parlando di Corbari per esempio, lo stavamo dicendo anche prima, lui è del 23, quindi se si pensa quando è avvenuto che siamo nel 44, c'aveva poco più di 20 anni, quindi sei cresciuto comunque in tutta un'epoca di fascisti, sei ritrovato già catapultato in un mondo che stava cambiando, comunque era un po' cambiato. E quindi pensare come insomma questa volontà o questo senso di oppressione a un certo punto sia un po' insito, ti scaturisca naturalmente, perché senti che qualcosa non va, perché ti fai delle domande, hai dei perché, oppure magari appunto come sia importante parlare con le persone, avere dei confronti su come erano le cose prima, cosa è stato, cosa ci poteva essere, E quindi scrivere può essere anche un po' questo, riportare appunto dei fatti che ti ricordano qualcosa, che ti possono dare delle idee e riportare appunto. E che dire, cioè, i complimenti non è che partono tanto dalla scelta del lessico piuttosto che dall'impatto che un singolo stralcio può lasciare a chi legge. Io credo che i presupposti siano quelli da notare in questo momento, sia in questo momento chi ascolta, sia in questo momento un po' più largo, nel senso questa fase storica. La puntata di oggi diventa un volano, nel senso che ricordiamo quello che è avvenuto 74 anni fa o 674 anni fa, non so, non ho fatto il conto, perché la storia ci dovrebbe insegnare qualcosa. E al contempo usciamo da casa e vediamo tutta un'altra serie di prospettive. Dopo arriveremo anche a parlare di temi sempre legati al 25 aprile, alla resistenza, all'antifascismo, ma anche all'attualità. Però tornando un attimino a questa parabola, dicevi dell'autoproduzione della memoria, oggi i giovani, o comunque sia le nuove generazioni, si approcciano sempre più, tra virgolette, ignoranti, sempre più lontano questo passato. Però al contempo si parla di coetanei, addirittura persone ben più giovani, molto più giovani. Esatto, anche molto più giovani. Il lavoro è utile per questo, perché a nostra volta si diventi divulgatrici, divulgatori di storia, di valore, di concetti, che poi vai a riportare nelle pratiche. Cioè, il passaggio di cui bisogna fare i complimenti, secondo me, è l'essere stati in grado, attraverso il meccanismo collettivo, meglio ancora, di un po' rompere quei limiti, vuoi di coraggio, vuoi di, non lo so, come dire, imbarazzo anche, mettersi un po' in mostra, perché scrivere, anche se si parla di un fatto di 6 secoli prima, è comunque mettere un po' a nudo una parte di sé. Ma è mettersi proprio in gioco. Esattamente. Dai, questo è il significante che sta sotto, al di là della trama della storia. Che dici? Te li prendi questi complimenti o ti metti a piangere qui? Oppure aspetti? Sono un mostro, la lacrimuccia. Ma si vede quando c'è l'occhio azzurro. Portali anche il resto del collettivo, perché prima mi avete darguito se che ho detto era tuo. No, sì, no, ma è suo. Per tutti. Ma perché lei è la leader del collettivo. No, siamo orizzontali per finta. Brava. Visto che il tempo stringe, ci siamo detti, avremmo anche tentato di capire dove è possibile leggere questo racconto. Diciamo, stiamo ultimando le ultime cose. Il titolo probabilmente sarà Passo di rivolta, giocando appunto sulla parola passo, perché è venuto al passo delle scalelle. E non lo so, stavamo pensando in realtà anche di organizzare un'escursione proprio il 24 luglio, che sarebbe la data in cui poi è avvenuto, che è la stessa escursione che poi magari abbiamo fatto noi lì nel partendo. Esatto, di cui non hai voluto lasciare dei dettagli prima, ecco il perché, attenzione. E magari chissà, una collaborazione potrebbe esserci col Teatro Contadino, ora vediamo, stiamo parlando col manager, chi lo sa, vedremo. Segnate sulle vostre agende il 24 luglio. Lo metto nella rassegna 20 di oggi, Dama. E vediamo se ci riusciamo e magari presentiamo finalmente questo mini raccontino, perché poi sono un po' più di 10 pagine, e poi chissà, magari ce ne saranno altri, perché appunto il 1300 si è rivelato pieno di sorprese, molto attuale. Comunque attuale. Anche Dostoevskij era partito da 10 pagine prima di scrivere le robe che ha scritto. Senti, ma un'ultima cazzata, cioè, ci hai regalato un pezzo prima, che era la linea gotica e CSI. Sì. perché? Perché vabbè, io sono un amante di CCCP, CSI, insomma, diciamo, nonostante poi la deriva di Lindo, ma diciamo, ce li ho nel cuore, quindi anche quando ero venuta l'altra volta avevo dato un CCCP, eh. È vero. E mi sembrava calzante, anche l'introduzione mi piaceva molto, quindi ho scelto, diciamo, questo pezzo da regalarvi e regalarmi quando mi riascolterò in radio. Bravissima, perché tu vai sulla sezione podcast, esatto, di womba.noblogs.org, vai sulla sezione Radio Contado. Io ovviamente riascolto solo me, del resto non mi frega un cazzo. Brava, viva la sincerità, viva il collettivo. Grande, viva il collettivo, viva l'orizzontalità, viva la sincerità e grande Grebana. Va bene, quanti allora cuori, rimani con noi, vero? Certo, ci dici altre due cose prima. Rimarrò con voi, sì. Va bene. Vi dirò almeno un puppa da qui alla fine della puntata. Sì. bene, giusto per tornare più nella grebana. Sì. Se sono stata troppo seria. Già ci manchi. Dai, allora facciamo uno stacchettino musicale e nel frattempo chiamiamo... Chi chiamiamo? Chiamiamo Dino il partigiano. Dino il parcontadino. Il parcontadino. Chissà se ci risponde. Il partigino. Il parigino. Dai, sei tradito. Lasciamo case, scuole ed officine. Mutammo in caserme le vecchie cascine. Armammo le mani di bombe e mitraglia. Temprammo il cuore e i muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti. Torniamo in diretta Radio Contado, sono le 15.35. Dino! Dino, aiuto! Chi è? Ciao! E chi è? Il mulo? Chi è? Ciao, Dino! Ciao, ciao! No, hai bisogno di un mulo, Dino, per il campo, te lo portiamo, eh? Ah, sì, ha voglia, c'è sempre bisogno. No. Basta rimangio un po' d'erba, basta di cespugliare, basta trinciare. Meglio il mulo. Meglio il mulo, sempre, lo dico sempre pure io. Anche se adoro il decespugliatore. Un po' di compagnia, invece sta sempre di decespugliatore. Ti sentiamo affaticato, polemico. Dino, come stai? Polemico, affaticato. Bene, tutto a posto. Sono informissimo. bellissima. Si sente, sai, guarda, quando c'è una cosa che si capisce al volo è il tuo stato di forma. Ma, hai passato una buona Pasqua? Bellissima! Oh, hai passato una Pasqua più bella di questa. Guarda, alla stragrandissima si sente proprio. Vabbè, queste ce le ridiamo noi, va. Senti, nulla, ma cosa stai facendo? Dove ti disturbiamo? Stai nel campo come tuo solito oppure? No, come no, oggi no. Oggi sono come fanno ogni tanto i contadini, con il tempo incerto. Ti ho visto io avevo uno scroscio, viene a fare la giratina a mia vita delle mie zone, non so se può fare pubblicità. Però alla cooperativa di legnaia. Oh. Sincero. Ogni tanto, visto, ricerche, visto, tutti i contadini non sanno più che fare, vengono qua. I vecchi, quelli moderni non tanto. Come no? Però, no, quelli moderni vanno a fare la giratina in piazza Tasso, dai. Esatto, infatti, gli antichi adesso vengono a fare la giratina operativa legnaia. No, a guardare le motoseghe esposte, tutte lucide. Tutte... Sì, per poi dire, madonna, vedere in carata la roba, torni tra contadini, cara roba, ora... Sì. Non fa più nulla. Vai, però non torniamo alla vecchia polemica del vestire sintetico, vestire coi panni di riciclo, che è una storiella vecchia. Mo. Non apriamo nemmeno il capitolo motoseghe nuove, lucide, oppure ereditare la motosega del nonno, rimetterla. Quelle pesavano da 30 kg, esatto. Quelle lì, belle Husqvarna, arancioni. Eccola lì, no. Oggi ha fatto l'Ilernia a tanta gente. È tutto vero. Senti, forse non so se il Ministero della Sanità gli sta facendo causa allo squadra. Dovrebbe. Oppure ci ha fatto i soldi, chi lo sa, non si capisce bene. Non si sa. Senti, io ti volevo chiedere questo: se hai finito le potature, hai bruciato fino all'ultima frasca, hai fatto le fascine, tutto al suo posto, oppure no? Allora, se bruciamo tanto, sì, diciamo quasi tutto, dai, rimane da bruciare un po' di rimasugli, ho visto un po' di quello che era stato tagliato delle canne, qualche potatura di fresco, poi per il resto, dai, abbastanza, insomma, a posto, anche dove abbiamo coccato gli olive è quasi tutto pulito, quindi, insomma, la stagione dei grandi falò dovrebbe essere terminata, dai. Per ora siamo a posto. Ora il vivo, diciamo, entra l'orto, perché ora, insomma, siamo nel pieno dei vari trapianti, visto che la stagione, insomma, sempre dal punto di vista della temperatura dovrebbe essere a posto, ha cominciato anche a piovere per fortuna un po', quindi ora bisogna cominciare a trapiantare tutto proprio. E tipo che cosa? Tutto, se a me ora è già tempo di mettere zucchine, pomodori, peperoni, melanzane, tutto, si può cominciare a mettere tutto in campo per chi ha già fatto le piantine magari in serra, insomma questo è il momento giusto di quello. E poi c'è grande dolore di questo periodo, appunto, che si diceva prima, il decespugliatore, con questo caldo e pioggia, oltre a crescere le piante cresce anche tanta erba, e quindi ora è il momento di decespugliare, di trinciare, tenere pulita la vigna, di appunto cominciare a pulire tutti i fossi, insomma è un periodo bello impegnativo. Ma le fave ci sono già, i baccelli? Fave ci sono sempre. Allora, i baccelli al mio campo ancora no, ma perché visto le mie, cioè, sono poverine, allevate naturalmente, però appunto venendo qua ho visto che c'è la gente che li droga che li dopa ben bene, ho visto già raccolgono. Sai dove ho visto raccogliere i baccelli? A Mondeggi. Secondo te li hanno pompati oppure c'erano i ragazzi? No. Perché se dici così facciamo partire la radio inchiesta subito, Cioè, al mercato di Piazza Tasso ce l'avevano venerdì. Siamo lì, questi giorni, dai. No, ti dico lì dove ho visto, insomma, già da qualche giorno anche d'accordo, però ora insomma 25 aprile, 1 maggio non si mangiano baccelli, che feste sono, insomma. A tal proposito. Quindi invito tutti ad andare in Piazza Taff a comprare il pecorino e i baccelli, almeno così, per festeggiare queste feste. Che bello. Nel migliore dei modi, vero? Ma tipo, tu, tipico contadino, domani che fai? Domani. Ma, lo domani, sai che giorno è domani? Domani, a parte vicissitudini mie private, se no andrei volentieri, come faccio quando posso, se ho proprio impegni impellenti nel campo urgente, comunque di andare a, insomma, in qualche... che piace, insomma, andare a festeggiare o a commemorare, come si può dire, questa data importante, magari anche in dei posti significativi sui nostri Appennini, sulle nostre montagne, dove sono caduti tanti partigiani, ecco, quello, insomma, è importante ricordarselo ogni tanto. Grande Dino, grande. Grande Dino, grande. Quindi invito tutti domani, via, andiamo a fare una fesina, non so, alla Fonte di Seppa a Montemurello o a Valibona, alle Croci di Calenzano, insomma, sono posti ogni tanto, andarci fisicamente fa bene. Sì. Per capire insomma che è stata la nostra storia recente, insomma. Certo. Con fave e pecorino a seguito. Con fave e pecorino, ovviamente, dei contadini. Grande Dino. E chi non ci avesse voglia o tempo, o gli pesasse il culo, o deve rimanere in città, comunque sia alle 17 il corteo antifascista, che culmina come tutti gli anni in Piazza Santo Spirito, perché no, tra l'altro. Certo, perché no, ovviamente. Perché no. Sei un grande Dino, ci saluti Legnaia? Voglia, sì. poi non so se è corretto, si potrebbe aprire un grande capitolo su Legnaia. Ci pensiamo. Grande dibattito dei contadini della zona. Tra ore di trasmissione. Chiediamo ai radioascoltatori di scriverci se vogliono o meno puntata con dibattito su Legnaia. Sulla cooperativa di Legnaia. Facciamo la diretta da là, tra l'altro. Possiamo... Prima ci devono trovare. Dino, tu sarai il nostro inviato speciale a Legnaia. Se fai democristiano, dico viva la cooperativa Legnaia. Sei un grande Dino. Buon 25 aprile. Mi raccomando, cooperativa Legnaia sempre. Sei un grande. Magari ci danno anche soldo per la trasmissione. Sì. Ci danno 2000 euro. Sponsor. Perché no? Sarà il caso, so. Intonachiano. Ci hai dato un ottimo spunto come sempre, Dino. Grazie. Ciao. E buon 25 aprile. Viva lo Squarna. Ciao. Musica, maestro. Anni mi dai, quanti giorni mi dai, non so quanto vivrò, tu quanto tempo vivrai, e lo dissi alla sera anche parlando fra sé, che tu mi vedi o non veda, sarò sempre con sé. Se conobbero il primo imbrunire sul finire d'agosto, là sul sentiero sottile che dalle colline svaniva nel bosco, Laura aveva 20 anni, il sorriso gentile della gente del posto, lui lavorava nei campi, sui palmi, l'odore del trifoglio, gli si videro in viso tra un pioppo ed un olmo, fino aveva un profilo fine, un corpo scolpito nel bronzo, quando la vide all'improvviso le disse per aprirle il suo mondo, da bimbo pensavo ci fosse un sole nuovo ogni giorno. Lei nascose il volto per sorridere di nascosto, ma ciò che le disse il suo polso era che quello era più di un incontro, e se già la seconda guerra del mondo infuriava tutti intorno, i loro occhi fermi, il mondo che girava tutti intorno. Laura e Dino, fra i tanti belli e poveri unici, lui figlio di un ciabattino, lei che era terza di 11, adesso avevano tutto e non avevano niente, sapevano non sarebbe stato semplice, sarebbe stato per sempre. Tu quanti anni mi dai? Quanti giorni mi dai? Non so quanto vivrò, tu quanto tempo vivrai? Glielo dissi alla sera, anche parlando fra sé, che tu mi veda o non veda, sarò sempre con te. Tu quanti anni mi dai? Quanti giorni mi dai? Quanti, sai da adesso alla fine, sali sulle colline, io sarò con te. te, con te. Laura aveva gli occhi di fata, Dino non era fatto per fare il sud. Tant'è che entrò nella resistenza subito, quando vennero i fasci a cercarlo una sera. Era già coi nostri nei boschi in attesa della primavera. E così fu il destino, Dino si fece vivo sempre meno. Se veniva a trovarla da clandestino, la portava in un covo segreto. E il giorno volava nascosti tra albero e albero, mentre i campanili in paese suonava le ore dell'angelo. Poi venne novembre, Dino pareva sparito per sempre. In dicembre una neve insistente cadde alla riva delle truppe tedesche. Laura attese paziente, vide schiacciarsi il torrente. Ad aprile vide il bosco vagire, gonfiare le gemme. Ci rincorsero voci, ognuna diceva qualcosa. Dino è stato colpito, ha cambiato vita, una donna nuova la sposa. Dino è scappato a Londra, ora trama nell'ombra. Dino ha tradito, è passato quei fasci, ora lavora giù a Roma. Ma Laura, anche se non sapeva, sapeva una cosa: il suo Dino era vivo e l'amava tanto ora come allora. Il pensiero di lui si muoveva nell'aria costante, dalle cime alla valle, fino ai nidi di rondine, sotto i tetti delle stalle. Le diceva fra i venti: non turbarti, perché, perché, perché tu non mi perdere. Anche se tu non mi vedi, sarò sempre con te, con te, con te. Prova a sorriderne. Laura non chiese, ma tenne fede, speranza e ragione. La chiamarono pazza, malnata, malata d'amore. Ma lei col dolore non aveva voluto nessun altro. Lui stava tornando, l'aveva scritto dentro sul mare. Era un giorno più caldo, il vento inseguiva le scie delle lepri. Il sole di maggio era alto, aveva già passato lo zenith. Una sagoma lontana venne fra i germogli dei boschi. Un uomo smagrito, patito, con una barba di mille giorni. Era tornato Dino. Il tempo è un pianto che non si recupera. Sul braccio scarno un numero alto degli internati di Buchenwald, ma negli occhi lo stesso chiarore, lo stesso sorriso. Le disse: non so se per te lo stesso, io sono lo stesso. E ricominciò il cammino e vissero intensamente. Videro rinascere l'Italia insieme nel CLN. Insieme vissero anni finché lui una sera si spense. Ma poco prima le prese le mani e le disse sorridente: tu quanti anni mi dai? Quanti giorni mi dai? Non so quanto vivrò, tu quanto tempo vivrai? Glielo disse alla sera, anche parlando fra sé. Che tu mi veda o non veda, sarò sempre con te. Tu quanti anni mi dai? Quanti giorni mi dai? Quanti, sai da adesso alla fine, sali sulle colline. Io sarò lì con te, con te, con te. Per contenta e ne con me la sgaffo i bore? No, pede mia, go di ascoltare Radio Contado i due mesa. Del bu. Se te pede mia ascoltare i due mesa, mercoledì, te pede ascoltare la sua posca dal venerdì o il sabato. Bella storia, è domenica? È domenica che è solo l'Atalanta. Eccoci qua, sì. Torniamo in diretta a 15.49 e ringraziamo sempre il Leone di Bergamo, che non solo registrò questo spottino con il mulo ormai X mesi fa, ma è stato anche colui che ha pizzicato la lettura dell'introduzione, ve la ricordate, quella sul coraggio, che trovereste su Prima Persona, percorsi autobiografici, La guerra è finita, edito nel marzo 2015 da, boh, non c'è sta scritto qua, dama, Poste Italiane S.P.A. Vabbè, no comment. Non importa. Oh, ma abbiamo cooperativa di legnaia, esatto. Diamo il bentornata a questi caldissimi microfoni, alla Mile. Anche te sei già venuta a trovarci. Ciao, sì. Sì, ti ricordi dovevo... quando? Per parlare di lei, per parlare di kombucha, per parlare di aloe. Di quello che fa, sì. Di aloe. Sì, la ricordavo, però non mi ricordo più. Non mi ricordo esattamente. Vabbè, quando. Vabbè, andate sul sito. Guarda, sul ricordo, con me si casca male, perché sono venuta a fare le letture e ho dimenticato il libro. Sei una grande, comunque sia, guarda, solo numeri 10 Radio Contado. Ma che libro hai dimenticato così subito? Papà, un libro a caso? Un libro che praticamente è fatto da me, però solo i disegni. Oh, guarda, brava, meno ingessata questo microfono. Puoi anche sfilare dal cazzillo. Se ti puoi anche farti una passeggiata. No, perché poi devo tenere in mano il cellulare per leggere il libro. Giusto? Sì, l'occhiale, il cellulare, c'è tutto, guarda, grande mille. Va bene, allora, io ho fatto delle illustrazioni in realtà. I testi non sono miei, sono delle bellissime interviste che sono state rilasciate a due giornalisti, Domenico Guarino e Chiara Brilli. Loro intorno al 2011-2012 hanno fatto una raccolta di interviste, mi sembra 15, a partigiani e partigiane, sotto un tema un po' particolare, perché invece di chiedergli solamente la testimonianza degli episodi o delle scelte che avevano fatto loro in quegli anni nefasti, hanno improntato le interviste chiedendogli anche cosa ne pensassero dei giorni di oggi. Quindi è venuta fuori una cosa molto interessante fra diciamo il deluso, l'incazzato, insomma sono state delle cose molto belle. Fra l'altro c'era un DVD dove inquadravano e filmavano i volti di queste persone mentre erano intervistate. Quando mi hanno regalato questo libro, che era un bel regalo di Natale, e ho visto queste facce, questi occhi pieni di passione, di incazzatura, a volte anche un po' di commozione, ho detto: oh, guarda che meraviglia da poter illustrare. Che bello. Ed era già un, diciamo, un po' un embrione che avevo nella testa, perché da quando io ho incominciato a fare in età recente la custode nelle scuole, mi ero resa conto che i ragazzi davano troppa attenzione alla pubblicità che facevano i fascisti davanti alle scuole con volantinaggi vari, e mi chiedevo: ma porca miseria, ma come mai i ragazzi di oggi stanno così appresso a questa gentaglia? Forse non conoscono la storia, perché dubito che un ragazzino di 16 anni, se gli racconti un paio di particolari di qualche strage è stata fatta, dubito che continui ad avere la certezza della validità di stendere sul braccio destro e dire ci rivorrebbe Benito, oppure addirittura farmi trovare disegnate le svastiche in giro per la scuola. Vabbè, saranno anche provocazioni dovute dalla all'età giovane età, di ignoranza, quant'altro. Via. No, ignoranza più che altro, ecco. Infatti il discorso è questo, che quando poi provavo a parlarci mi rendevo conto che le loro motivazioni erano date da una ignoranza storica colossale. E andando a guardare un pochino nei loro libri di testo mi rendevo conto che, secondo me non a caso, la parte degli eccidi, delle stragi nazifasciste sono sempre più rimpicciolite, no? Sempre più ristrette, sempre più relegate in angolini, diciamo alle superiori al quinto anno, verso la fine del quinto anno delle superiori incominciano a spolverare un pochino questa storia. Beh, dando tantissimo spazio a dinosauri, sì. Agli assiri, ai babilonesi, agli egiziani. Beh, se volessimo. E al 1300, ma se sono gli episodi e racconti, vanno benissimo. No, ci si potrebbe aggiungere anche un ulteriore carico, perché voglio dire, al di là delle ore scolastiche, della scuola dell'obbligo, ciascuno a casa è libero di usufruire di quell'enorme miniera che è internet, e una volta lì purtroppo c'è anche un problema di fonti, oltre che di fantasia di base. Quindi dentro le aule scolastiche e fuori hai gli occhi tuoi che possono osservare, noi appunto ci strafidiamo, appunto perché ti conosciamo, sì, diciamo, perché, come curriculum, sei stata sempre molto chiara ed è per questo che ti abbiamo voluta invitare. Con curriculum sembrava quasi è per quello che ti abbiamo selezionato. Certo, fra decine di illustratrici. Cioè, è una delle pochissime volte che sono andati per i lavori grazie al curriculum. Questo ti fa capire come fra inviati a legnaia e meraviglioso. I nostri standard siano sempre altissimi. Sei una grande. Va bene, no, fra l'altro io vengo da un liceo artistico degli anni 70 dove la mia preside è nel tomo degli obblighi e delle regole dell'istituto, il numero uno era: in questa scuola tutti si devono adoperare, insegnanti, personale ATA, eccetera, a insegnare la non violenza e l'antifascismo agli studenti. Questa era la scuola che offrivo io, ma insomma erano altri anni, un'altra epoca, molto più vivace, più ricca. Ma chi lo sa, adesso non chi voglio fare sa. Il solito polemico, no, eccetera, però tutte queste grete, tutte queste treccine, tutte queste cose, no, non dico voglio ben sperare. Speriamo. No, noi continuiamo a dare i nostri piccoli tassellini, inutile da sghignarsi davanti a me, cara Greta. Noi continuiamo a mettere i nostri piccoli tassellini, perché alla lunga hai visto mai che attraverso che contenitori fa qualcosa di... ci si prova, ci non si prova a realizzare qualche cambiamento. Ha voglia. No, ma secondo me anche movimenti che non sembra che a livello eclatante riescono a fare qualche cambiamento, poi in realtà piano piano almeno il semino viene messo, no? È sempre quella la filosofia di partenza. Insomma, tornando al libro, mi sono detta, beh, visto che questi libri non amano usarli, e quando li usano c'è scritto poco, io che cosa posso fare di antifascista, quotidiano, militante, culturale, piano piano tutti i giorni. Proviamo a fargli dei disegnini di quello che è stata la storia e di quello che è successo. Quindi quando mi hanno regalato questo libro mi è venuto in mente che potevo illustrare quello. Ne ho scelte 6, 3 uomini e 3 donne. Oh, e qui arrivo donne, ai dunque donne. Donne. Ora, non per fare sempre la solita retorica, però sì, la faccio. Quando si parla di resistenza, sia a livello così musicale che narrativo e anche di luoghi comuni, spesso si parla di partigiani maschi che hanno fatto chissà che tante belle cose e di partigiane donne, e più che altro si insiste su una figura ben precisa che è la staffetta con la bicicletta, eccetera. Ovviamente sì, anche quello, e non era un passeggiare in bicicletta, era un rischiare la vita in ogni caso, perché loro portavano armi, documenti, notizie, mangiare, viveri, eccetera, e comunque rischiavano la pelle anche loro. Però ci sono state anche delle belle ragazze, delle belle donnine che hanno partecipato attivamente ai combattimenti. E su questo io mi sono voluta soffermare, perché queste 3 donne di cui ho illustrato la testimonianza hanno degli episodi veramente molto simpatici da raccontare. Qui ne ho scelta una che si chiama Miriam Pellegrini Ferri, nome di battaglia Mimì. E lei adesso abita a Fiumicino, se volete andare a vedervi la sua pagina Facebook, è lì ancora attivissima, che alla sua veneranda età si studia per bene le cronache, dice la sua. Ce la vuoi leggere? Sì, la però leggere volevo ora? Dire una cosa molto importante di queste interviste. Ci sarà la parte molto carina, che è anche giusto appunto quella che si rifà ai giorni d'oggi. Quindi, come dicevo prima, oltre che a dover raccontare un minimo gli episodi che hanno vissuto in quei giorni, l'intervistatore gli chiede anche una valutazione di quello che ci si vive adesso. Ovviamente tutto all'insegno della delusione, perché loro hanno rischiato la vita, lo stupro, la tortura, proprio per un ideale, non tanto per liberare la patria dall'invasore bastardo che era, ma anche con un sogno di costruire una società ben precisa. Ah, quindi non sono contenti di Salvini? No, porca vacca, ma all'epoca è stato fatto questo libro, non erano contenti di Berlusconi e Fini. Rivoghiamo. Che eccoci, strano. Eccoci, non rivoghiamo troppo. Ce la leggi adesso o ci mandiamo prima un pezzaccio? Dai, pezzettino. Gang. Yes, festa d'aprile, thank you mille, l'hai scelto tu. Manzoni. È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fanno vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non son proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza la mano destra al saluto romano. Ma se per caso incontrano i partigiani, per salutare alza entrambe le mani. sa che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Nera camicia nera che noi abbiamo lavata, non sei di macca buona, ti sei ritirata. Si sa, le mode cambiano quasi ogni mese, ora per il fascista sa dice il borghese. Da qualche settimana per i cari tedeschi maturano le nespole persino sui peschi. Il caro dice il Führer ci davano per morti, ma noi partigiani siamo sempre risorti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e vive i partigiani, è festa d'aprile. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e vive i partigiani, è festa d'aprile. Il mio nome è Miriam Pellegrini Ferri, nome di battaglia Mimì. Sono nata in una famiglia antifascista. Mio padre scriveva sul Gazzettino di Venezia. Non avendo mai voluto fare la tessera del fascio, anche se non era comunista, gli proibirono di scrivere di attualità e politica. Amava la giustizia sociale, il rispetto per le persone, la libertà di dire e di scrivere tutto ciò che il fascismo negava. Per alcuni episodi lo misero a scrivere solo in terza pagina di narrativa. Noi lo osservavamo cosa faceva e come si comportava e capivamo. Poi in alcuni episodi, le parole fra le righe avevamo capito e di che cosa stava soffrendo, insomma. Un giorno un temporale fece andare via la corrente e mio padre tirò fuori un lume di petrolio per illuminare la stanza. Prese l'occasione per dire che il passato è sempre utile e non bisogna mai buttarlo via del tutto. Questo è l'esempio di come ci insegnava i suoi valori attraverso i significati sottintesi delle storie che raccontava. Una mia compagna di scuola, Liliana, conoscendo le mie idee e i miei sentimenti, mi consigliò di prendere contatti con una lotta seria contro il fascismo, a condizione che non lo sapesse nessuno, neanche la famiglia. Il primo incontro fu con Liliana e tre compagni. Uno era figlio di pescatori e poi c'era il fidanzato di Liliana, che era uno studente iscritto a Giustizia e Libertà e che in seguito entrò nella Brigata Soppo. Avevamo tutti meno di 20 anni. A me, Liliana ed altre donne, con Liliana e altre donne, le armi di Prassi non venivano date. La mia esperienza sulla resistenza del rapporto uomo-donna è stato di questo persistere del maschilismo. Solo Carla Capponi, vice comandante di una brigata di Roma, riuscì ad avere una pistola perché la rubò ad un poliziotto. Però prese parte a questa presa, però a parte questa pretesa superiorità del maschio, il rapporto fra noi era di grande spessore umano e di rispetto. Una volta a Palazzo Giustiniani, dove c'era l'archivio con tutti i nomi dei partigiani da arrestare, abbiamo aspettato che ci fosse un attimo di vuoto nella strada e abbiamo piazzato una bella bomba. L'abbiamo fatto saltare tutto per aria. I nazisti, da vigliacchi assassini per vendetta, presero a caso 13 giovani dalle carceri di Venezia e li fucilarono sulle rovine di Palazzo Giustiniani. Il fascismo era il braccio armato estremo del capitalismo, una cosa orribile, sotto tutti i punti di vista. È una mascherata, il Duce era un buffone, un uomo assurdo, pieno di boria, arrogante, ignorante. Intorno a questi personaggi si accalcano i sudditi, non persone con un proprio cervello, ma uomini e donne abituati a dire solo e sempre signor sì, magari anche solo per interesse, ma lo fanno. Misero in galera anche il nostro povero Imbianchino, perché si avvicinava il primo maggio e i fascisti imprigionavano tutti gli operai che potevano essere antifascisti perché avrebbero potuto organizzare qualche manifestazione. Il fascismo era la negazione di tutte le libertà, a partire da quelle più elementari. Era anche aggressione. Arrivarono a casa di altri con i gas, uccidendo centinaia di persone per provare a fare l'impero. Lo chiamavano l'impero dell'Italia stracciona. E qui si arriva al titolo della sua storia, Il treno carico di zucchero. Perché racconta questo? Era fermo alla stazione di Venezia. Non sapevamo dove era diretto. Quando si seppe che era pieno di zucchero, delle nostre terre, ed era diretto in Germania, mentre i nostri bambini morivano di fame, collocammo una bomba sotto al treno, nell'ora in cui alla stazione non c'era nessuno. Quella che seguì fu una bellissima scena. L'esplosione e donne che correvano a prendere lo zucchero con le sue ceste dappertutto in tutte le calli. Piangemmo di gioia. Il popolo aveva capito che era importante che ci fossero i combattenti e perché combattevano. Il giorno della liberazione Venezia aveva un'aria quasi magica. Fra l'altro il 25 aprile a Venezia è festa del patrono e ogni donna riceve un fiore rosso dal suo uomo. Così quel giorno la città era un unico tappeto di fiori rossi, meravigliosi. Il ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti fece una legge che dal 22 giugno del 46 condonava i reati comuni e politici dei collaborazionisti con i tedeschi fino al concorso in omicidio. Ha tirato fuori i fascisti dalle galere in nome di una pacificazione sociale. E soprattutto nel nord Italia, dove la popolazione aveva subito tante violenze da parte dei nazisti, molti partigiani scesero in piazza, ma quell'amnistia fece il suo corso. Purtroppo di questa sciagurata decisione fu conseguenza il permanere o reinserire in posti strategici dello Stato di personaggi impuniti, invasati, assassini e assassini che fra la fine degli anni 60 e gli anni 80 commetteranno episodi folli e crudeli, come un tentato colpo di Stato, strage e attentati con tanti morti e innocenti. Verrà chiamata strategia della tensione, dove alcuni appartenenti a servizi segreti di Stato e neofascisti appositamente spargevano il terrore per far credere alla popolazione che ci fosse bisogno di un nuovo regime autorizzato, autoritario, per ristabilire ordine e sicurezza. Erano vigliacchi, arroganti, ignoranti, privi di rispetto, con quelle divise lugubri e poi una violenza infame. A Venezia c'era Cal Littorio, poi diventerà Can Matteotti, dove toglievano le unghie, torturavano per cose da poco, anche solo se uno non faceva il saluto romano. Ma se il fascismo era un carnevale macabro, oggi è ancora più degenerato. Ci sono più mezzi per far passare un pensiero torbido nella gente, come se niente fosse. Il berlusconismo ha portato una grande deviazione, una vera e propria degradazione del pensiero e dei valori, e lo ha fatto perché aveva i mezzi per farlo, avergli permesso di avere 3 TV, pacchetti azionari, di quelle più piccole. Il monopolio delle pubblicità, i giornali. È stato un errore clamoroso. Ha diffuso un terribile malcostume ovunque, anche nello stesso Parlamento. Ci sarà un risveglio, il nostro popolo sa farsi manipolare, ma sa anche liberarsi e ribellarsi. Io credo che occorrano regole scientifiche, la conoscenza della storia e la scienza della politica. I moti spontanei finiscono solo con il sangue dei popoli. Se crediamo nella scienza medica, nell'astronautica, perché non crediamo nella scienza politica, che è l'organizzazione della nostra vita? Ho il diritto di morire credendo che sia possibile. Oh ragazza dalle guance di pesca, oh ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva all'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e lasci, eppure felici. Avevamo vent'anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, credevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A vent'anni la vita è oltre il ponte, ti abbassi, dai balza avanti, ogni passo che fai non hanno figli che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio tra i tigli con te cara che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, mi vivessero in quel che tu speri. Oh ragazzi, Andiamo in diretta, sono le 16.29 e mettiamo in pausa un attimo la lettura e l'esperienza di Milena, la disegnatrice, perché a proposito di attualità, ti sei rivolta appunto all'attualità, Milena. Ci trasferiamo proprio ai giorni letteralmente nostri, ci trasferiamo a Orvieto, che è un piccolo comune in provincia di Terni, in Umbria, nel quale però è avvenuta una cosa molto significativa e abbiamo in diretta al telefono Mirko, a cui diamo un grande benvenuto. Ciao Mirko, ben ritrovato. Ciao, ciao a tutti e a tutte. Mirko è un carissimo amico innanzitutto, il quale è parte, oltre che di COBAS e altre associazioni, sul territorio orvietano di una in particolare che si chiama CDP, Centro di Documentazione Popolare. Dopo gli si chiederà anche qualche informazione in più. E questo CDP è stata una delle tante associazioni che si è fatta, diciamo, promotrice di una delibera comunale che ieri, possiamo dire, ha visto la luce. Mirko, ci vuoi dire qualcosa in più? Sì, dunque, prima sulla delibera o prima sul CDP? Come vuoi tu, come vuoi tu, sai che siamo molto elastici in questa radiolina. Ok. Allora, se volete prima sulla delibera, nel senso sì, che la nostra associazione un po' di tempo fa, diciamo, si è fatta promotrice, prima ancora che col comune di Orvieto, con altre associazioni dell'Orvietano, affinché l'ente locale prendesse in considerazione l'ipotesi di discutere un'eventuale mozione, che poi è stata presentata da un consigliere di maggioranza. Una mozione che prevedesse la modifica dei regolamenti degli spazi pubblici, quindi sia le piazze sia i locali di proprietà comunale, nel tentativo di vietare questi spazi ad organizzazioni dichiaratamente neofasciste o neonaziste e in generale a gruppi, partiti, associazioni varie di chiara matrice xenofoba, razzista e così via. Più di un anno fa questa mozione è stata approvata in Consiglio Comunale con i voti della maggioranza. La maggioranza è rappresentata al momento da due gruppi principalmente, uno una lista civica, un PD e il consigliere da solo, ex SEL ed altre poi, evoluzioni successive, e la minoranza rappresentata da esponenti del centrodestra orvietano con varie casacche da Forza Italia, Fratelli d'Italia e anche una consigliera del Movimento 5 Stelle. Questa mozione il 27 di marzo, se non ricordo male, del 2018 è stata appunto approvata in consiglio e prevedeva appunto le finalità che vi ho appena descritto con i voti della maggioranza, in quanto dei consiglieri di minoranza, quelli di centrodestra sono usciti dall'aula per protesta e l'unica consigliera di 5 Stelle ha votato contraria. Che bellezza. È cronaca, diciamo, quindi sì, sì. Guarda, ti conosco abbastanza bene per non mettere in dubbio pressappoco nulla di quanto vai dicendo, perché no, è impressionante l'uscita dall'aula per protesta, bellissimo questa. Sì, perché appunto questo se con voi non è necessario, ma insomma con chi ci ascolta magari è necessario rimarcare il fatto che gruppi dell'estrema destra in Italia che da sempre fanno finta di essere non conformi, come si chiamano loro, fanno finta di non essere affini al centrodestra, diciamo, rappresentati in Parlamento e così via, che in realtà, come sappiamo bene, insomma, sono sempre andati a braccetto. E quando le cose poi si declinano a livello locale, come vedete, insomma, sono sempre questi rappresentanti della cosiddetta destra moderata, beato chi ci crede, a prendere le loro difese, insomma, anche in Consiglio Comunale. Per farvela breve, questa mozione è stata appunto approvata a marzo del 2018 e a distanza di un anno non aveva ancora trovato attuazione. Attuazione significa che era rimasta lì. E i regolamenti per la concessione degli spazi pubblici, quelli che ognuno di noi ogni volta deve valutare, no? Quando si chiede la piazza, si chiedono spazi, sì, non erano mai stati adeguati e quindi era lì, era rimasto un atto simbolico. Quindi il Centro di Documentazione Popolare, la nostra associazione, si è fatta promotrice presso molte associazioni dell'Orvietano, di Orvieto e comprensorio, perché ce ne sono tante, diciamo, c'è un attivismo sociale da questo punto di vista notevole, di varia natura, con una lettera per sollecitare il Comune di Orvieto a dare attuazione appunto alla mozione approvata un anno prima. Questa nostra proposta ha trovato la disponibilità di 12 associazioni dell'Orvietano, 11 oltre a noi. Sono tante, adesso potrei anche elencarvele, ma non so se è il caso, ditemi voi, insomma, associazioni che normalmente non si occupano necessariamente di politica o questioni sociali, diciamo, lavoro, fanno attività di varia natura, si occupano di ambiente, si occupano di cultura nel senso più ampio del termine, all'interno delle quali in ogni caso abbiamo trovato, pensavamo e speravamo, insomma, di trovare almeno da questo punto di vista un'unità di intenti. E infatti qualcosa ha significato, perché se effettivamente questa delibera è arrivata a essere, diciamo, attuativa, un merito ve lo dovreste anche pigliare. E poi un'altra domanda che mi viene quasi ironica, però non lo è, ma questa cosa che avvenga a poche ore dal 25 aprile è una bellissima coincidenza? Oppure è un segnale politico molto forte che il Comune di Orvieto, rosso, rossissimo, vuole darci? No, vabbè, mi viene da ridere perché, insomma, no, come hai detto tu, è una coincidenza bella, mettiamola in questi termini. Non so quanto legata alle imminenti elezioni amministrative, io non credo, cioè il comune di chi amministra attualmente Orvieto e si ripropone per amministrarlo ancora non credo che con questa azione, diciamo così, chissà quali voti pensa di recuperare. È vero che da qualche anno abbiamo trovato comunque all'interno della giunta comunale delle sensibilità fino a qualche anno fa inaspettate che hanno consentito essere presenti anche noi con le iniziative anche in comune, anche presso la sala consiliare, con presentazioni di libri, con iniziative per le scuole. E queste, diciamo, queste affinità le abbiamo riscontrate in alcuni elementi all'interno della giunta comunale, ma non necessariamente in tutti, tanto più che anche la mozione di cui parlavamo è ancora una volta stata approvata a maggioranza dal Consiglio Comunale, e questa volta che ha appunto finalmente reso attuativa la mozione approvata un anno fa, nuovamente i rappresentanti della minoranza del centrodestra sono ancora una volta usciti dall'aula. Grande. Questa volta non c'era la rappresentante dei 5 Stelle, mi sa che nemmeno c'era, adesso vado un po' a memoria. Non è proprio venuta. Scusaci se ci scappa una risata qua in diretta. No, no, prego, io vi potrei mandare privatamente anche i video che abbiamo girato durante questa discussione, la loro discussione in Consiglio Comunale, e questo è quanto. Vi posso assicurare che anche in qualche ufficio comunale non era una cosa molto ben vista, perché ahimè ormai, come in molte parti d'Italia, il messaggio che passa è quello dei pesi e dei contrappesi, cioè il neofascismo purtroppo non è una cosa da condannare per le istituzioni locali, alcune, purtroppo non tutte, bensì è un'opinione politica come un'altra secondo loro. Quindi laddove appunto si vieta di chiedere, in realtà non è che si vieta poi di chiedere spazi pubblici, è semplicemente si chiede a chi va a fare questa richiesta di essere, diciamo, di non essere fascisti sostanzialmente, di non professare quello che prevede sostanzialmente la famosa e dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione. Chiaro. Ora, io so bene che questa cosa qua in giro per l'Italia, che all'ordinato è arrivata adesso, ma precedentemente è stata approvata più o meno sui generis da comuni anche molto più grandi, penso a Brescia, penso a Bologna, anche in ambito di compagni, anche in ambito di movimenti, eccetera, non necessariamente è ben vista, perché viene, nonostante tutto, vista come una limitazione di libertà che potenzialmente si potrebbe anche ritorcere contro ad ambiti che ci possono riguardare. Io non credo che sia così. Io credo che qui, soprattutto nelle piccole comunità come la nostra, se siamo arrivati a far approvare un consiglio comunale dove noi non ci siamo, non siamo rappresentati, non ci siamo mai, come dire, presentati, e tantomeno abbiamo mai garantito chissà quale consenso a chi amministra, io penso che una cosa del genere è semplicemente il frutto di un lavoro che facciamo sulla città e sul comprensorio da più di 10 anni, e anche per questo forse qualche elemento della giunta che amministra alla fine si è trovato a ragionare con voi, con noi, o ha condiviso con noi delle iniziative che, ripeto, abbiamo anche proposto alle scuole, anche il mese scorso per la ricorrenza dell'eccidio di Camorena, ci hanno invitato a fare da relatori, insomma, tenuto conto del lavoro che abbiamo fatto in questi anni recuperando materiali storici, recuperando rapporti con le famiglie dei fucilati nel 44 e così via. Credo che più di questo, di questi tempi soprattutto, sia veramente difficile fare, se non, ripeto, sensibilizzare una città, perlomeno la nostra, che una certa memoria ce la dovrebbe avere, e quindi il ruolo nostro in questo caso è stato quello di non far dimenticare, di ricordare che questo è un territorio che ha pagato un prezzo altissimo alla violenza del fascismo già a partire dai primi anni 20, fino ad arrivare a ridosso proprio alle date che hanno poi significato la liberazione della città, perché gli ultimi poverini innocenti ammazzati sono stati fucilati sull'aia della propria fattoria il giorno prima che gli americani entrano a Orvieto, quindi, insomma, per farvi capire, gli inglesi, anzi, per la precisione. Beh, insomma, è un po' l'obiettivo anche nostro oggi di non far dimenticare, infatti abbiamo qua un po' di testimonianze e insomma, anche la tua che è attuale e odierna è molto molto importante, grazie. Davvero. Grazie a voi. Mi hai rubato le ultime frasi, cioè le ultime domande che ti volevo fare, ci hai già risposto sostanzialmente, era la diffusione di... No, sei stato bravissimo. Va benissimo. Purtroppo il tempo radiofonico davvero è stretto e ci ha stretto e insomma, un abbraccio, questo ti si manda volentieri e davvero grazie al contributo. Grazie mille. Grazie a voi, in bocca al lupo, un abbraccio. Ciao Michele, a presto. Ciao, a presto. Beh, una storia quantomeno virtuosa, davvero. Ma direi che poi insomma è un collegamento perfetto anche con quello che ci raccontava prima Milena. Sì, a proposito dell'attualità, gente che spazia. Vogliamo schiacciare gli ultimi due minutini di musica, che questa la tagliamo per forza, perché sennò torniamo davvero agli anni 60. Unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Ci manca ancora tantissimo e torniamo, siamo già alla fine, ma torniamo qui. Ma prima o poi non so se ci licenziano o ci danno un altro paio di trasmissioni settimanali. Sì, ma secondo me ci premieranno. Ma si allungano questo. Esatto. Mille, ci puoi ripetere il commento che hai fatto sulla chiamata che è successa adesso a Mirko? Mirko è molto, cioè io lo conosco, gli voglio un bene dell'anima, è molto umile da certi punti di vista. Questa esperienza qua è nella nostra piccola comunità, Orvieto nella grande città, ok, lo confermo. Però, cioè, simbolicamente, se fosse applicato quanto è stato deciso da questo consiglio, è importantissimo. Bene città come Brescia, bene città come Bologna. Però Firenze, cosa dicevi? Firenze è vergognosa su questo piano, perché si sciacquano tanto la bocca sulla città della resistenza e sulla memoria, e poi alla fine è solamente da parte loro un'orribile ricorrenza vuota, perché poi nei fatti il comune di Firenze cede gli spazi ai fascisti, gli dà la massima libertà, e tantissime volte infatti viene fuori proprio questa idea, diciamo, basata sull'ipocrisia, che tutti devono avere il diritto di parola perché la democrazia eccetera, senza ricordarsi che la democrazia è, in questo caso, è finta, e la libertà di parola, gente che ha massacrato migliaia di persone, specialmente in Toscana, dove ci sono stati più di 800 eccidi per un totale di quasi 4.500 morti civili, non partigiani. Si possa ricordare, quindi, fra l'altro, a Prato la nostra cara prefetta ha dato il lasciapassare ai fascisti di fare la loro bella ricorrenza. Ne abbiamo parlato, però per fortuna la risposta è stata di migliaia di antifascisti, hanno riempito Prato. Sì, io volevo solo ricordare il sito dell'AMPI, che si può dire quel che si può dire oggi dell'associazione, però il sito conserva beato lui, ai noi, una certa oggettività nella memoria. Quindi ampi.it, donne e uomini, zona / Toscana, ecco, vi trovate decine e decine di biografie di uomini e donne, donne e uomini, che la resistenza l'hanno fatta e molti di questi non l'hanno vista finire. E io vorrei aggiungere un altro sito molto importante che è nato da poco, le stragi nazifasciste in Italia. C'è la mappa dell'Italia con tutti i pallini rossi, uno ci va a cliccare sopra e sono tutti i vari paesi, paesini e città dove ci sono stati degli eccidi con i nomi degli assassinati, spesso anche bambini ovviamente, e c'è tutta la mappa dell'Italia con tutte le stragi che sono state fatte. Mile, ma invece il libro illustrato da te, che insomma è un'altra grande testimonianza, dove lo si può trovare? Allora, io ho deciso di non mettermi in mano a nessuna casa editrice perché ho voluto fare un volume a offerta libera. Se avessi fatto stampare da una casa editrice ovviamente ci sarebbe stato, diciamo, l'obbligo di un prezzo di copertina, quindi non ha distribuzione. E il mio obiettivo era quello di distribuirlo solamente tramite un rapporto, un colloquio, un intervento nelle scuole, per esempio. Ho già fatto 19 istituti superiori, oppure tramite rapporti personali dove ci sia un dialogo, un confronto e una crescita insieme su come affrontare anche il fascismo di oggi. Quindi diciamo che chi è proprio incuriosito, chi magari vuole fare anche un bel lavorino nelle scuole, ti può trovare in Piazza Tasso tutti i venerdì pomeriggio al mercato e chiederti, sì, informazioni su questa meravigliosa Sono creazione. 114 pagine, tutte a colori, 6 interviste. Bene. Allora intanto Mile, grazie mille, è grazie stata veramente grazie preziosa. Mille. E... Grazie mille. Wow! Ora è sempre resistenza. Esatto. Sempre. Oggi più che mai, a quanto pare. E vai con la rassegna eventi. Torniamo in diretta, attenzione, 16:39, sempre più sfondati fuori dai nostri confini abituali per la rassegna eventi. Saremo, voglio dire, rapidissimi per necessità. E attenzione, super ospite, rassegna eventi, diamo la linea direttamente a Bricobaldo, fuoco alle polveri, pronto? Buonasera a tutti e tutte. Ciao Bricco, ci manchi da morire. Ciao, quando torni a trovarci? Ti vogliamo sempre qui. Appena smette di piovere arrivo. Grande Bricco con la sua bici. Senti, ma cosa si fa il 1° maggio? Eravamo un po' indecisi. Senti, mare, mare, montagna, o fiume, o lago, tutto quello che volete, però basta che tornate per l'ora di sera, perché nel pomeriggio, dal tardo pomeriggio, ci sarà la festa di Radio Uomo. E vai! La polveriera, spazio comune. Ma che spettacolo! E cosa ci sarà in questa mega festa? Ci saranno degli stand, ci saranno, non lo so. Ci saranno degli stand, ci saranno dei banchini e saranno nient'altro che le trasmissioni vere e proprie. Quindi ogni trasmissione avrà a disposizione uno spazio dove poter portare quello che fa, no? E portare i volti e portare le esperienze e probabilmente speriamo anche qualche laboratorio. E poi sarà una serata di musica con ben 4 band appunto presso la polveriera Stazione Comune, via di Santa Reparata, dal tardo pomeriggio 18-19, una cosa del genere. Che meraviglia! Io ho capito proprio un'altra cosa. Come fate il 1° maggio? No, qua meno male che abbiamo chiamato te, perché il Muro era convinto di venire lì alle 2:30 per promuovere Radio Contado. Vabbè, diciamo che se vuole venire alle 2:30 c'è spazio anche alle 2:30, ma non mancherò, Dio santo, anche perché i contadini sai si svegliano all'alba tutti i giorni e quindi alle 2:30 ne sono già belle stanco io. È vero, va bene, allora puoi venire per fare una siesta se vuoi. Sì, sentimi, ma giusto perché siamo in intimità io e te al telefono, ma fuoco alle polveri come lo acchitta al banchino, perché io sto in crisi per Radio Contado, che devo fare? sorpresa, è una sorpresa, non si può dire niente. Come non si può dire niente? Mentre dici così io cercavo una bocco, una scorsa. Ancora non abbiamo deciso niente, però sarà fatto a breve. Vediamo, è tutto in via di definizione, non siamo andati via. Almeno questo ci unisce, dai, meno male. Vabbè, allora ci vediamo tutti il primo maggio in polveriera per festeggiare il Radio Wombat. Parco avremo gli Upanishad, gli Zambra, Carlos Dunga e Malclango, che sono una band che non so se avete mai vista, suona con delle maschere da gorilla. Zambra, naturalmente, gli Zambra sono una band che arriva da bellhardcore punk, però con influenze metal, noise, che è originaria di Zambra, che è una quartiere di Sesto Trentino. Una seratina riposante, contadini, a noi. Contadini, non so, di Carlo Dunga fanno trash, non so se... No, troveremo... Fanno progressive, non so che dirvi, psichedelico, hardcore. Ma siamo contadini moderni qua, Bricco, cioè a noi ci piacciono ste cosette, ci piacciono da morire, dai, quindi... Buono. Bella. Oh, ci vediamo grazie, dopo per Bricco. Una birra. Perfetto. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Ma che bellezza, guarda, pur di sforare, cioè siamo disposti proprio a intervistare chiunque. Chi chiamiamo davvero? Adesso? Chi chiamiamo? Chi... No, adesso non abbiamo veramente tipo 2 minuti per sì. Ricordare gli altri eventi, che oltre al mercato del venerdì in Piazza Tasso e quello del martedì ormai all'Isolotto, venerdì con Annessa a Casa della Salute. Ricordiamo che il 1° maggio appunto in polveriera, quindi noi non saremo qua, o almeno in diretta, non saremo in diretta da Frittole, ma ci godiamo la festa di Radio Wombat, e non ci saremo neanche il mercoledì successivo, se vogliamo ancora andare là, o meglio ci saremo per voi in diretta, ma non da Frittole, bensì da Agraria. Esatto, perché aspetta un secondo che mo so io che devo recuperare un messaggio. Allora, giornata di Agraria, giornata di agroecologia e gestione sostenibile del territorio. La giornata si svolgerà all'interno della facoltà di agraria e si dividerà in 2 parti. Alla mattina si terranno lezioni ed interventi in aula magna, uno dei quali a cura del professor Giovanni Modugno, docente di fisica. Riguarderà l'analisi della criticità dell'ampliamento dell'aeroporto. In seguito ci sarà spazio per interventi a cura dei comitati e delle realtà coinvolte. Mondeggi, bene comune, presidio Noincino aeroporto, CRC Jerome La Ronza, la conoscete questa? In modo che possano presentarsi agli studenti e proporre una visione e una versione dell'agricoltura e della gestione del territorio fuori dalle dinamiche di commercio, di sfruttamento e in generale capitaliste. E indovina da quello un po'? Che conta e quello che conta è che noi saremo in diretta da Agraria l'8 maggio, tutto santo il Dio. Giorno, cioè in diretta sì. Solo dalle 2:30 alle 4:30, ma saremo lì a prendere interventi, a fare cose, quindi non saremo in diretta da Frittole, ma torneremo ciao. In diretta per voi. Si scende in città e non è finita qui, perché ovviamente domani c'è il 25 aprile, allora via Duri in Santo Spirito, chi insomma non può andare al mare, in montagna, alle lapidi o a Legnaia, come diceva prima Dino il contadino. Oppure, per chi non ci avesse proprio niente da fare, si arriva a sabato 4 maggio, ok, che è il giorno dopo la festa Wombat. È possibile? No, no. Sub 4 maggio 2019. Sì, ma la festa Wombat è il primo maggio, un mercoledì, non stiamo in onda noi. Stiamo fusi, sabato 4 maggio, ultimo evento da ricordare, pranzo sociale di quartiere presso gli spazi del CSA Next Emerson. E poi il 24 di luglio c'è la gita alle scalelle con la grebana, però... Segnatevelo sul chi calendario. Chi vuole uscire con la grebana, è così. E allora buon 25 aprile a tutti, sì, a domani tutte. Sono 8 miliardi di cose da fare, che ognuno scelga qualcosa, ma l'importante è commemorare. Ricordare. Ti è a Plato. L'importante è commemorare, esserci e festeggiare, alla faccia di tutti quelli che non lo faranno. Come buon salutiamo? 25 aprile a tutti. Non possiamo che salutare così. Un bacione da tutti, grazie alle nostre bacioni. Ospiti. Ciao a tutti. Ci sentiamo da 15 giorni. Un classicone per voi. Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao.